Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Oh, torniamo in studio e partiamo per Cento, la piccola Bologna, così definita per una struttura di portici che ricorda, ma con una sua identità. Cento per me è una cittadina veramente molto, molto, si dice graziosa, no? Per me è qualcosa di più. Comunque, ne ho già parlato in partenza durante il buongiorno del breakfast, ora procediamo con la sede del premio Lettura Ragazzi, che sarà Cento. Premia chi scrive, vince chi legge. Allora, la presentazione del programma è alla 45esima edizione della Kermesse, la 45esima edizione. Parte dal 29 aprile al 4 maggio. Oggi è il 18 aprile, che Last Minute è. È qui. È perché è domani che vi sarà un'anticipazione di cui parleremo insieme a Elena Melloni del premio Letteratura Ragazzi di Cento. Intanto do qualche indicazione. Il calendario di questa edizione prevede 5 giorni, eventi, ospiti illustri rivolti ad un pubblico di ogni età, spettacoli, incontri che animeranno il centro storico della città e faranno confluire a Cento numerose scuole, anche la collaborazione con le scuole, con le famiglie, incontri con importanti e noti ospiti, firma copie con autori di libri, spettacoli, ovviamente immancabili laboratori per ragazzi, proiezioni di film e, visto che oggi siamo in mostra, ci saranno anche esposizioni, letture per bambini, discussioni sul ruolo dei premi di letteratura e anche tanto altro. Insomma, vi ho parlato di un'anteprima per venerdì 19 aprile, domani, già dalle ore 9:30 presso il Salone di Rappresentanza Credem. Qui i ragazzi delle scuole primarie avranno l'opportunità di conoscere Anne Coens, autrice del libro finalista Da qui si vede il mondo intero, un incontro che sarà moderato e tradotto da Olga Amigliani. Il secondo turno, che ce ne sarà ovviamente per la giornata di domani, è prevista alle ore 11. Poi parleremo anche della specificità della 45esima edizione per i giorni in partenza, appunto, come ho detto in precedenza, dal 29 aprile al 4 maggio. Intanto sentiamo l'introduzione di Elena Melloni del premio Letteratura Ragazzi di Cento. Partiremo innanzitutto con un'anteprima proprio venerdì questa settimana con un'autrice finalista del premio che è Anne Coens dall'Olanda. Ci raggiungerà qui a Cento, avrà una serie di incontri con le scuole, incontrerà in un'unica giornata quasi 300 ragazzi, sarà accompagnata dalla sua traduttrice e presenterà il libro Da qui si vede il mondo intero, finalista nella scuola primaria. Poi proseguiremo il 29 con Daniela Lucangeli, la neuroscienziata, ormai famosa su tutti i media, ci parlerà dell'emozione di apprendere con la lettura, con una lectio magistralis aperta al pubblico. Tutti gli eventi sono gratuiti, è sufficiente la prenotazione online. Martedì 30 avremo Luigi Dalcin in teatro con oltre 1000 ragazzi, 2 turni di spettacoli, con uno spettacolo dal titolo Aiuto, non so cosa scrivere, per raccontare proprio l'importanza della lettura e della scrittura. Poi salteremo, faremo pausa al 1° maggio e riprenderemo il 2 e il 3 con gli incontri con tutti gli autori finalisti, quindi avremo Federico Appel, Teresa Scala, Guido Sgardoli, Esperanza Acuzzimana, e ognuno di loro presenterà i loro libri finalisti, quindi Chi vuol diventare detective, La banda del pianerottolo, Siberia. Inaugureremo poi una mostra di illustratori, perché all'interno del premio di letteratura abbiamo appena concluso qualche giorno fa il concorso per illustratori, faremo una mostra con le tavole originali proprio nella sede della fondazione dal 2 maggio al 30 maggio, visitabile tutti i giorni. Nella prima giornata avremo anche una visita guidata, quindi alle scuole e ai ragazzi che vogliono venire, anche in questo caso completamente gratuita. Avremo laboratori con il metodo Munari tutto il 2, sia il 2 mattina che il 2 pomeriggio, dal titolo Il gusto di sfogliare, dal foglio al libro, e sarà proprio un laboratorio dove bambini con la carta, i colori e le penne costruiranno un loro libro. Ci saranno sempre nella giornata di giovedì delle letture nella piazza, nel centro storico di Cento, dal titolo A spasso con mostre, streghe, gatti e draghi, fatto sulla falsa riga delle illustrazioni di Axel Schaeffer, che è il papà del Gruffalo, è un personaggio famoso tra i bambini. music has right to the children. Loro sono i Boards of Canada. Ah, mi sono informato, ho visto l'immagine di Gruffalo, è questo toro misto a un fagocero enorme, non è bellissimo ma è molto simpatico. ...1972, primo compleanno di cui ho ricordo, si avvicina la nonna Alda con questo pacchettino per me. Vado con grande curiosità e emozione, il primo regalo di cui ho coscienza che è un regalo. È il mio compleanno, è il 15 giugno 1972. Oh. Sandrino di Richard Scarry è un libro bellissimo, disegnato meravigliosamente con le avventure, le storie, la quotidianità di questo gattino antropomorfo impegnato nella sua vita di giovane micio. E non nascondo che la mia passione felina è arrivata anche da questo libro. Penso che sia ancora diffuso Sandrino di Richard Scarry, eh? Adesso lo scopriamo se è ancora diffuso. 31 32 34 35 36 48 68 27 35. Allora sono andato alla Ubi che non so neanch'io. A volte capita, mi capitava coi dischi, mi capita con i libri. Ho visto in esposizione e ne rifozza un libro del grande, per me uno scrittore immenso, Giuseppe Berto, di lui leggete tutto. E infatti io recupero tutto da Neri Pozza. Questo libro, Il Brigante, poi una volta arrivato a casa dico, beh, oddio, com'è possibile che io non abbia Il Brigante? E infatti l'ho preso doppio, ne ho due. 333-180-9494 e qua vicino a me Il Brigante di Giuseppe Berto, edizione Neri Pozza. Sono certo di quello che sto offrendo e mettendo in palio perché Giuseppe Berto è uno scrittore immenso per voi. Ho parlato di Sandrino, adesso vediamo se è ancora diffuso il disegno e la letteratura per ragazzi di questo gattino impegnato nella sua quotidianità. Come si chiamava e che animale era il suo migliore amico? Fenomenale, idea fenomenale. Come si chiama? Più che come si chiamava, spero sia ancora diffuso. Quindi per Richard Scarry, come si chiamava e che animale era il migliore amico del gattino Sandrino? Un po' difficile questa, però dai, insomma, si può fare tranquillamente. Chissà, poi magari qualcuno lo conosce. Ribadisco, 333-180-9494. Stiamo parlando di un premio. Vince chi legge, quindi io propongo lettura sempre. Premia chi scrive, vince chi legge. 45esima edizione del Festival Premio Letteratura Ragazzi di 100. Grazie Elena Melloni, che ho scoperto essere anche appassionata. C'è una grande passione per la pallacanestro a 100. Io sono ancora dell'epoca della Gambero 100, squadra per cui avevo simpatia. Era la seconda squadra di 100, la più prestigiosa Benedetto, quella che insomma è arrivata anche alla massima serie. Però quando ho citato la Gambero 100, la stessa Elena fa ma sei rimasto indietro. Del resto io sono indietro. Detto ciò, partiamo con la seconda parte di conversazione per la presentazione del premio letteratura Ragazzi di 100. E poi arriviamo alla giornata, diciamo, un po' più conclusiva, che sarà quella del 4 maggio. Il sabato mattina alle 11 avremo la cerimonia di premiazione, dove sfileranno e conosceremo finalmente la classifica finale dei vincitori. Alla mattina, molto presto, alle 9 avremo Guercino Kids, perché 100 è la città natale di Guercino, quindi appena riaperto la nostra pinacoteca, e faremo un tour visita guidata per bambini

Buongiorno William, la risposta penso sia il verme zigozago. Non conosco Sandrino, ma so chi è Scherri. Grazie, ma grazie a te Paola. Medaglia di bronzo, però sei sul podio, Medaglia d'argento è Dino Zigozago ed è un verme, sì, è zigozago ed è questo simpatico vermetto. Primo posto, la risposta è arrivata nell'immediato, e Paola T come Torino, e zigozago è un verme, esattamente. E quindi ti leggerai questo libro molto bello di Giuseppe Berto dal titolo Il Brigante, edizione Neri Pozza. Sapete, quando vedi, molte volte capita, ma questo è uno dei miei autori preferiti, lo prendo, poi l'hai già, magari anche già letto. Ed è un piacere condividerlo con te, cara Paolo. Organizzeremo le modalità di consegna. Intanto andiamo verso la conclusione. Grazie Elena Melloni per la disponibilità, per questa anticipazione. Quindi è un last minute, perché ci sarà una sorta di spin-off di presentazione già da domani. Poi ufficialmente dal 29 aprile al 4 maggio, ovviamente 2024 a 100. Concludiamo quindi con le ultime informazioni. Poi ricordo, adesso si sta portando un po' il contenuto in frequenza, poi ci sarà il podcast, però premio letteratura ragazzi per quanto riguarda 100, sia con la pagina Facebook e anche con il sito, che dà la possibilità di consultare comodamente tutto il programma. A tale proposito, 45 anni dalla prima edizione, cos'è cambiato come rapporto tra ragazzi, letteratura, e come è cambiato? Allora, 45 anni sono una storia lunghissima, anche perché ininterrotta, non ci ha fermato il terremoto, non ci ha fermato il Covid, e abbiamo avuto Gianni Rodari come primo e unico presidente di giuria nella prima edizione del 78, quindi abbiamo iniziato subito con un livello altissimo e gli organizzatori hanno cercato di mantenere questo livello altissimo. La letteratura per ragazzi è in piena evoluzione ed è una delle cose più dinamiche, dico sempre, che ci si possa immaginare. Infatti a volte si pensa alla letteratura per ragazzi ancora quella degli anni 70, degli anni 80. No, ogni mese esce letteratura di grandissima qualità con grandissimi autori. Noi siamo un premio internazionale, quindi da noi passano anche tantissimi autori internazionali tradotti in italiano. La famosissima Rowling con Harry Potter vinse nel 98 a 100, unico premio italiano ad averla premiata, con la prima edizione della saga del maghetto Harry Potter e la pietra filosofale. Cos'è cambiato? È cambiata la giuria popolare, perché noi abbiamo una giuria tecnica prima che seleziona tra tutti i libri che passano, poi ne seleziona tre per la scuola primaria, tre per la scuola secondaria, e a quel punto entra in gioco l'esercito di bambini che legge i libri. Sono 14.000 quest'anno, da Palermo a Bolzano, con anche le scuole italiane all'estero. Noi abbiamo scuole da Parigi, Berlino, l'Istria, che è uno zoccolo duro che ci segue da sempre, e poi votano loro la classifica finale. Quindi noi in realtà fino a quel 4 maggio non sapremo chi vince, perché stiamo raccogliendo, hanno iniziato ad arrivare i voti adesso attraverso il nostro portale, e sono 14.000. Quindi quello che è cambiato è la dimensione che ha assunto il premio su scala nazionale e anche internazionale. Questa è stata una conversazione oltre che illuminante, sento carica di entusiasmo. Grazie. Perché, e ne avete ben merito, fra l'altro. Sarà fino al 4 maggio, premia chi scrive e vince chi legge. Il premio letteratura ragazzi di 100. Ringrazio tantissimo Elena Melloni per questa anticipazione. Buona lettura, buona kermesse e grazie per la partecipazione. Grazie, grazie a voi, buona giornata. Terminato questo esteso last minute, 103.1 Radio Città Fuji, col giovedì è di forza, un giovedì che prosegue con la rubrica Regola d'Arte in Mostra. Ho aspettato, ho studiato, anche perché la mia passione per le avanguardie in Russia e Unione Sovietica, come ben sapete, è molto molto grande. Pur restando nei miei limiti, insomma, porteremo con la curatrice Silvia Burini per la esposizione presente fino al 29 settembre, Le avanguardie del deserto, Uzbekistan. Ho creato una colonna sonora un po' particolare, daremo presentazione a questa storia meravigliosa, non solo di estetica ma anche di percorso artistico eccezionale, tra pochissimo dopo la pubblicità in mostra.